partir, ma ascolta. Oimè, chi mi respinge? E via si vada! Il suo traballa ed un'oscura nebbia mi va giurando intorno e turbine e tempesta e notte. Ferite pur.